Allora, c'era una ragione. volta in ogni cittadina c'è una brava persona, c'è un ricco, c'è un povero, c'è un matto, c'è un peccatore. Il peccatore della cittadina un giorno ha deciso di fare la teshuva, ha deciso di cambiare i suoi modi, di diventare un bravo ebreo, di non più rubare, di non più ingannare la gente. E così. Cosa fa un ebreo che vuole fare la teshuva? Va a farsi consigliare dal rabbino. È andato dal Rav e ha detto: Rav, vorrei cambiare la mia vita, vorrei migliorare i miei modi. Cosa posso fare? Allora il rabbino gli ha detto: innanzitutto, tutto quello che hai ingannato, rubato dalla gente, devi restituire. La prima cosa da mettere a posto è il rapporto tra le persone. Inutile fare una teshuva nei confronti di Akadosh Baruch Hu se non hai sanato il rapporto con le persone. Allora, prima cosa devi restituire tutto ciò che hai rubato, e poi vieni ogni giorno al Bet HaKnesset a tefilà, e dopo la tefilà rimani al tempio per un po' di tempo, mezz'ora, tre quarti d'ora, quello che è, e recita dei Teilim. Con sentimento, con intenzione, per chiedere a Kadosh Baruch Hu di accettare la tua teshuva. E questo ladro, ex ladro, si è davvero, ha preso a cuore questa cosa, si è comportato in questa maniera, e ogni giorno andava lì e diceva con le lacrime il Teilim, con grande sincerità. Un giorno è entrato nel Bet HaKnesset e vede uno che è seduto in una delle banchine del Bet HaKnesset con un libro di Teilim. E con molta kavanah e con molta intenzione, forse anche con qualche lacrima, sta recitando i Teilim. Chi era questo qualcuno? Non era altro che il Rav della città. Allora questo ex ladro pensa tra sé e sé e dice: chissà da chi ha rubato il rabbino ieri sera che si è messo a dire un Teilim così tanta kavanah. Allora noi sappiamo che nell'ebraismo c'è una base molto importante che è la Teshuvah. Ovvero che non è mai troppo tardi, non è mai persa la cosa, è sempre possibile rimediare in qualche maniera. Hakadosh Baruch Hu accetta la nostra teshuva, significa che accetta che una persona può cambiare se stessa, può cambiare la propria situazione, in un certo senso può cambiare il passato, nel senso può risanare quello che è stato il passato, diventando una persona nuova, fino al punto che i maestri dicono che i livelli più alti di Teshuvah, perché ci sono molte fasi e molti livelli nella Teshuvah, nei livelli più alti della Teshuvah si arriva addirittura in un momento in cui ciò che era prima considerato un peccato gli viene considerato addirittura una mitzvah, cioè il trasformare il passato fino al punto che è come se quegli atti negativi si trasformassero in degli atti positivi, perché erano comunque i precursori che hanno fatto arrivare a questo livello. Non è questo il tema adesso dell'azione per approfondire troppo, però come concetto la Teshuvah è qualcosa di base. E tradizionalmente la nostra fede ebraica è che la Teshuvah sincera è sempre accettata. La persona si chiede: io faccio Teshuvah, come posso sapere se Hashem lo accetta o no? Non funziona così. Se tu fai la Teshuvah, Hashem lo accetta. C'è una garanzia. Se la tua Teshuvah è sincera, è accettata. Non devi avere il dubbio. Certo, puoi sempre migliorarla, perché tu cresci e magari approfondisci, diventi più profondo come persona e allora puoi fare un approfondimento anche della Teshuvah, però non significa che quella prima non era valida. Se tu fai Teshuvah, la Teshuvah è accettata ed è valida. Come possiamo immaginare allora che una persona potesse aver fatto un errore, che può essere considerato un peccato, e la sua teshuva e la sua richiesta non sia stata accettata? E la cosa molto strana, ed è raccontato nella parashah della nostra settimana, Chukat, è che questa persona non era altro che Moshe Rabbeinu stesso. Il più grande profeta, il più grande tzaddik che è mai esistito, colui che parlava, tra virgolette, faccia a faccia con Akadosh Baruch Hu, che la Torah racconta ha fatto un errore, e per questo errore c'è stata una conseguenza, la conseguenza è stata che non sarebbe mai entrato in Eretz Israel, e E per quanto possa aver chiesto e richiesto e richiesto e richiesto e pregato, non gli è comunque stata data questa possibilità. Ed è una cosa molto strana. Cos'è la storia? Cos'è accaduto? Sicuramente alcuni di voi lo sapete, però solo per ricapitolare brevemente, la Parashah racconta che in un certo momento nel percorso degli ebrei nel deserto, anzi verso la fine di questo percorso, circa un anno prima che questo percorso finisse, succede che c'è una mancanza d'acqua, e poi approfondiremo forse le motivazioni di questa cosa. E HaKadosh Baruch Hu dice a Mosè: prendete, andate tu e Aaron, prendete la staffa, la famosa staffa, la stessa staffa che hanno usato davanti al faraone e hanno dimostrato miracoli di HaKadosh Baruch Hu usando la staffa, eccetera. E vai a parlare con la roccia e la roccia darà le sue acque. Moshe Rabbeinu, invece di parlare con la roccia, colpisce la roccia e HaKadosh Baruch Hu si adira con lui e con Aaron e dice: voi siete andati, voi non avete impedito che il mio nome sia santificato davanti al popolo, perché quello che Hashem ha detto non era effettivamente quello che si è realizzato di fatto, e non c'è rimedio, non entrerete in Eretz Israel e non c'è rimedio a questo problema. Ora c'è qualcosa di molto interessante. E prendo il libro di Salmi in italiano perché voglio leggervi la traduzione esatta. C'è scritto nel Teilim, ed è un versetto citato nel Midrash che adesso vi citerò, nel Teilim credo capitolo 25, versetto, non è 25. Aspetta. Allora, il versetto è, poi ve lo traduco meglio. Il versetto dice: Lechu chazu mifalot Hashem nora alilal bene Adam. Andate a vedere le opere del Signore, nora alilal al bene Adam, che possono esprimersi in una terribile, nora terribile e temibile, alilal. Alilal significa come un complotto. Perché si canta quando c'è Sefer del Dibolini e il Nora Alila? Questa è un'altra parola che sembra Alila. Ah, non è Alila? No, nell'accento degli ebrei libici questo è Ahallela. Ah, ok. Che il Nora Ahallela e che lode come Hallel. Okay. Lodare il Signore. Però sembra, è vero, all'orecchio sembra. Sì, sì, sì. Anch'io da piccolo, quando andavo via Garfagnana, credevo che dicevano Alila. Invece è Alila. Allora, Nora Alila. Hai detto che è complotto? Sì, è come un complotto, perché come noi un... Noi in giudeo-romani siamo in Galilà, cioè abbiamo... E questa è la parola. Con la Ain, in Galilà, bravissimo. È esattamente questa, la parola che è scritta. Nora Alila al Benei Adam, bravissimo. È esattamente questo. Allora, cosa significa? Il Midrash Tanhuma, Midrash Tanhuma dice, perso un attimo il segno, Midrash Tanhuma dice così: Vedete le opere del Signore che possono essere a volte esprimersi in un complotto terribile contro l'uomo. Cosa significa? Dice Rabbi Yoshua ben Korcha, a volte tu, Kadosh Baruch Hu, fai arrivare a noi delle situazioni noraot, cioè terribili, attraverso una alila, non in maniera diretta, ma creando una alila, che abbiamo tutti capito cosa significa, attraverso un complotto. Dice, a cosa può essere paragonata questa cosa? Come se fosse, se ci fosse una persona, un uomo che decide di divorziarsi dalla sua moglie. Ok? Ha già deciso da prima, ha già fatto scrivere il get, il contratto del divorzio, e arriva a casa, non dice niente. Però cerca una alilà, cerca un motivo. Ok? Allora dice, per favore mi dai un bicchiere d'acqua? Gli dai un bicchiere d'acqua? Gli dà un bicchiere d'acqua fredda. Dice, scusa, io volevo un bicchiere d'acqua calda. Ecco, prendi questo. Get, vai, ti divorzi. Lei dice, scusami, come facevi a sapere che ti davo il che ti avrei dato il bicchiere che tu non volevi, se avevi già preparato, perché avevi già preparato prima il get, sapevi il futuro? È ovvio che è solo una alilà. È solo una motivazione cercata. È un pretesto, grazie, per qualche cosa che era già stato deciso. Ok? Allora dice, uguale... Quando HaKadosh Baruch Hu ha detto ad Moshe, quando Moshe discuteva all'inizio, prima dell'esodo, prima della Yitziat Mitzrayim con HaKadosh Baruch Hu riguardo la sua discesa di ritorno in Egitto per parlare col faraone, non voleva andare, eccetera, eccetera. Alla fine HaKadosh Baruch Hu ha detto a Moshe, Atati Re, che anche questa parola tutti a Roma conoscono, che significa ora vedrai. Ma non è ora vedrai, ora Dio Moshe. Letteralmente no. Tati Re vedrai, con l'Alef, Re Ya. Ah, ok, sì, non avevo capito. Ora vedrai. Io sapevo che invece che tutti lo traduciamo male, che tutti lo traducono come tu vedrai, invece non è tu vedrai, ma è tu temerai. Sì, sì. Tu? No, letteralmente è letteralmente vedrai, sì. Senti tutto il verso. Atati Re Asher e Esel farò. Tu vedrai ciò che farò al faraone. Questo è il senso letterale. Tu vedrai ciò che farò al faraone. E i maestri dicono, tu vedrai ciò che farò al faraone, ma non vedrai ciò che farò agli altri re che saranno conquistati con l'entrata in Eretz Israele. Vedrai la fase della caduta dell'Egitto, ma non vedrai la fase della caduta della terra di Canaan e la trasformazione in Eretz Israele. E cioè che già dall'inizio aveva alluso a questa cosa, che Moshe non sarebbe entrato in Eretz Israel, e qui alla fine dei 40 anni, verso la fine, è venuta fuori la Alilà, è venuto fuori il pretesto. E allora perché la Torah deve creare questa cosa? Perché HaKadosh Baruch Hu deve creare questo pretesto? Come si chiedeva a quella signora, perché il marito doveva inventarsi una storia? Poteva dire, non posso più stare con te e voglio divorziarmi. Per quale motivo serviva tutta questa Alilà? E allora forse la motivazione, o almeno stasera cercheremo di entrare in questa ottica, che è la lezione che possiamo trarre noi da quella storia che è stata scelta come alilà, come pretesto, perché evidentemente è talmente importante da rimanere in eterno come lezione per noi, per capirci qualche cosa nel nostro comportamento. E cerchiamo di capire... Cos'è che dobbiamo capire tra le molte cose che sicuramente ci sono in questa storia specifica? Allora, torniamo un attimino indietro. Il popolo che esce dall'Egitto è guidato da Mosè, ma in realtà, se leggiamo attentamente la storia, vediamo che c'è in realtà un consiglio di guida a capo di questo popolo, e sono tre fratelli. Come sappiamo benissimo, Mosè, Aaron e Miriam. Che insieme in realtà, certo Mosè è a capo di tutto, però insieme in realtà guidano il popolo. Il Midrash dice qualcosa di molto interessante. Il Midrash nel Shemot, la parasha in cui nasce Mosè, e troviamo che Aaron e Miriam erano già presenti, il Midrash dice che il fatto stesso della nascita di queste tre figure era per il popolo ebraico come una... come un precursore della redenzione. Era come una quasi un'anteprima, come dire, sono arrivati questi tre, adesso possiamo respirare meglio. possiamo essere più tranquilli. C'erano già delle indicazioni all'origine, quando erano nati, quando erano piccoli. Quando il faraone però ha fatto quel primo decreto, tra i primi decreti, che era quello della schiavitù, e il popolo ha iniziato a dover essere sottomesso a quella situazione di sottomissione nella schiavitù, nel lavoro forzato, e proprio in quel periodo è nata Miriam. Tra l'altro questa cosa si rispecchia nel suo nome, cioè lei è stata nominata per il periodo in cui si trovavano, per la situazione nella quale si trovavano in quel momento i Bene Israel, che era una situazione di merirut, di amarezza. E Miriam riprende questo concetto. Acqua amara vuol dire? Miriam significa qualcosa di amaro. Non è Miriam, no? Yam come mare? Può darsi, non lo so. Può darsi, perché c'è anche la parola Maim in Miriam. Se togliamo la resh diventa Maim. Eh sì, può essere. Però in generale il concetto dell'amarezza. Qui vediamo anche come i genitori di Miriam erano delle figure molto importanti all'interno di Am Israel, erano anche loro delle guide. Non è per nulla che danno ai loro figli dei nomi che rispecchiano la situazione generale di Am Israel. Amram, il padre di Mosè, era considerato un grande della sua generazione. Comunque, quindi Miriam nasce in quel periodo e assume, gli viene dato quel nome. La seconda fase della persecuzione, la fase in cui il faraone decreta l'uccisione dell'assassinio dei bambini appena nati, no? Dei bambini maschi appena nati, e quello è il periodo in cui nasce, scusami, non dei appena nati, questo era il terzo, il secondo è quello. C'erano due fasi. La prima fase è che, se vi ricordate, il faraone chiamò le levatrici e disse loro: quando vedete che nasce un maschio, uccidetelo. E in quel periodo era nato Aaron. Aaron ci ricorda in ebraico la parola Hirayon. Hirayon significa gravidanza. I genitori hanno dato il nome ad Aaron nel periodo in cui il popolo ebraico aveva paura della gravidanza, che chissà cosa succederà se nasce un maschio. Scusami, però possiamo fare la lezione? Sì, facciamo le rifuash le ma di padre di Michelle, aspetta. Sì, non mi ricordo il nome della madre. Ok, controlla e poi lo diciamo. Il rayon, la gravidanza. La terza fase in cui il faraone aveva dato l'indicazione non più alle levatrici, perché non hanno rispettato l'istruzione del faraone, vero? Ha dato l'istruzione proprio agli egizi o ai loro soldati, eccetera, di andare da una casa all'altra e i bambini maschi prenderli e fare che cosa? Buttarli nel Nilo, bravo. Allora lì nasce Mosè. Che nome assume Mosè dato dalla figlia del faraone che lo tira fuori proprio dal Nilo? Mosè significa Meshitihu, l'ho attinto, l'ho tirato fuori dalle acque. Ognuno dei loro nomi rispecchia la situazione di Am Israel. E così era già dal momento della loro nascita, e così era nel proseguo della loro vita, anche quando il popolo ebraico è arrivato soprattutto nel deserto. C'è scritto nei tanti Midrashim che il benessere materiale dei Bene Israel dipendeva dalla presenza di queste tre figure. Cioè, per il loro merito, loro avevano il benessere su diversi piani, diversi aspetti della vita. Per esempio, tre cose nello specifico. Per ciò che riguarda l'acqua, la presenza dell'acqua nel deserto, che chiaramente non è scontata, la presenza dell'acqua era per merito di Miriam, c'è scritto. E c'è scritto che c'era il pozzo di Miriam. Il pozzo di Miriam sarebbe stata come una roccia dalla quale fuoriusciva dell'acqua, e questa roccia seguiva il percorso dei Bene Israel. Tu sarebbe rifuacile Marshall Romulo Shlomo Ben Olimpia. Ok, allora dedichiamo la lezione per la pronta guarigione, rifuacile ma di Romulo Shlomo Ben Olimpia, e se vogliamo dire come le altre volte anche l'Ilui Nishmat di Graziano Hanania di Nepi e Shabbatai Sermoneta e l'Ilui Nishmat Shabbatai Sermoneta e Nishmat Angelo Mordechai Moscato e l'Inuchat Nefesh Alisa Cohen e Roberto Bracci e per la memoria dei loro nishmati Roberto Reuven Bracci e Renato Piperno e Renato Piperno e Bellina Salmoni e Bellina Salmoni e Riceva Battiamante e di loro nishmati Riceva Battiamante. Ok, che tutto questo che... allora studiamo bene, così sarà una bella lia per la Neshama. Quindi in merito di Miriam l'acqua, in merito dei Aaron a Cohen la protezione delle famose nuvole della gloria che circondavano l'accampamento dell'Am Israel in qualche maniera isolandoli dai pericoli del deserto e altri, e la parte forse più importante, il nutrimento, che era nella forma della manna, il man bizchut Moshe Rabbeinu, questo in merito di Moshe Rabbeinu. Questi tre elementi erano presenti nel deserto per merito di questi tre tzadikim. Per ciò che riguarda il legame tra Miriam e l'acqua nello specifico, che legame c'era, ci sono diverse spiegazioni. Una delle spiegazioni è che Miriam era quella che si era posta vicino al Nilo per osservare e tenere d'occhio la situazione di Mosè, che era il neonato posto in quel famoso cestino all'interno del Nilo. C'è scritto inoltre in un Midrash, Shirashirim Rabbah, come si garantiva nel deserto la possibilità che le donne ebree potessero andare al mikve e purificarsi e unirsi con i loro mariti e portare una prossima generazione di Am Israel? Che mikve c'era nel deserto? Era tutto l'acqua del pozzo di Miriam. Ed era l'acqua quindi che usavano per purificazione spirituale, ma anche per pulizia materiale, igienica. E quindi tutto questo ha contribuito addirittura non solamente all'idea che tu pensi all'acqua nel deserto, ho bisogno dell'acqua per bere, certo, quella è una cosa di base, però anche su livelli molto più profondi della continuità dei Am Israel. E questo in merito di Miriam. E Miriam qui, e cioè i maestri con questo alludono all'idea che lei, non solamente quando gli ebrei sono arrivati nel deserto, ma già da prima quando lei era piccola e si occupava, secondo molti midrashim, era lei e la madre erano delle levatrici, quindi si dedicavano al aiutare la continuità del popolo. Il fatto, come dicevamo prima, che era presente quando Mosè aveva bisogno di aiuto da neonato e lei era quella che era, diciamo così, il guardiano, è tutto un percorso unico che lei già da piccola porta avanti fino a che diventa anziana. Tra l'altro, in questo Midrash c'è anche l'idea che una persona potrebbe fare qualcosa che gli può sembrare, gli potrebbe sembrare piccola, la cosa che fa, dice, vabbè, faccio questo, ma non sa mai poi come si sviluppa la cosa, nel bene parlo, una cosa positiva che tu puoi fare oggi e non pensare che tra 40 anni o 50 anni ti troverai i frutti di quello che avevi fatto senza neanche pensarci tanto, magari in una maniera sproporzionata nel bene. Quindi quei piccoli atti che magari faceva da piccola Miriam poi si esprimono in qualcosa di grandissimo nella continuità di Am Israel nel momento in cui si trovano nel deserto. Quindi qui è la parte positiva della storia di Miriam, però poi arriva il momento in cui Miriam viene a mancare. Okay, ha vissuto una lunga vita, grazie a Dio, è stata una persona molto giusta, Miriam era una profetessa, era una nevia. Il decimo giorno del mese di Nisan, dell'anno precedente all'anno in cui sono entrati in Eretz Israel, Miriam muore. Moshe e Aaron si trovano in una situazione di lutto, di grave lutto, hanno perso la sorella. Però da fuori della tenda iniziano a sentire i rumori, le voci di lamentela, le voci di ribellione. Cosa è successo? Dal momento che è mancata Miriam, manca l'acqua. Manca l'acqua e non c'è più quella famosa roccia, non c'è più il famoso pozzo di Miriam. Allora succede quello che avviene, che viene raccontato nella parasha che leggeremo questo Shabbat, come dicevo prima, Hukat. Kadosh Baruch Hu dice a Mosè: prendi la staffa e vai e riunisci il popolo, raduna il popolo, portali davanti alla roccia e parla con la roccia di fare di nuovo fuoriuscire le sue acque. Così il popolo anche vedrà chi è davvero la loro fonte di sostentamento, che è qualcosa di miracoloso, che è qualcosa che viene direttamente da Hashem, e forse cesseranno un po' le loro ribellioni, le loro lamentele, eccetera. Posso chiedere una cosa riguardo? Sì. Perché c'è sempre questo, tra virgolette, bisogno di dover dimostrare che tutto sia divino, non è dall'uscita dall'Egitto, è un po' tutto miracoloso, cioè già la loro esistenza lì, la manna e tutto il resto, perché ogni volta c'è bisogno di dimostrare? È un'ottima domanda e credo di tornare a questo un po' nel spiegare questo percorso proprio. Come si cresce nel percorso e forse se serve all'inizio, forse andando avanti serve sempre di meno, come in realtà vediamo nella storia, che tutto il concetto di rivelazione va comunque diminuendosi. Come hai detto tu, no? Dai tempi del faraone, cioè di Mosè, il dono della Torah, l'apertura del mare, tutti questi grandi miracoli che poi piano piano vengono sempre di meno. Poi abbiamo l'era della profezia, che però non è una rivelazione come era quando tutto il popolo vedeva certe cose, eccetera. E poi perdiamo anche la profezia, cioè c'è tutto un percorso in cui sembra che si diminuisca quel livello, che però può essere visto da una prospettiva totalmente opposta, che sarebbe... Non ne abbiamo bisogno. Oh, esatto. Esatto, che da bambino devi essere accompagnato, quando diventi grande devi iniziare a camminare da solo. E torneremo un attimino a questa cosa. Però continuiamo un attimino con la storia stessa. Cosa succede? Mosè parla con la roccia. Sto commentando insieme a Rashi, diciamo, quello che è scritto esplicitamente nei versetti e quello che un po' è riempito dai Midrashim. Mosè parla con la roccia così come gli era stato richiesto e non c'è acqua. Rashi dice che la roccia, quella indicata, quella di Miriam per così dire, era posta tra molte altre rocce e quindi non era necessariamente così chiaro che fosse quella esattamente. E evidentemente Mosè non ha parlato con o alla roccia corretta, quella giusta, e allora Mosè continua a proseguire nella zona a cercare la roccia giusta e lì, mentre lui va avanti e cammina, dietro di lui di nuovo: ah, ma voi, ma qui state cercando di prenderci in giro, adesso troverete qualche fonte di acqua e direte che è una cosa miracolosa, eccetera, eccetera. Perché scusa, se è un miracolo, perché ti serve quella roccia? È un miracolo, qualsiasi roccia può, per lo stesso prezzo, può essere un'altra roccia. Allora Mosè si è arrabbiato da questa continua messa mettere in gioco i dubbi e queste assillazioni continue contro delle indicazioni date da lui a nome di Hashem, e si arrabbia e dice: ascoltatemi ribelli, shimuna hamorim, o ribelli, sentite, credete che una roccia può davvero far fuoriuscire dall'acqua? Aminasela zeno tzilachemaim. E nella sua rabbia, la Torah descrive come lui prende la staffa e colpisce la roccia. Una volta, e un'altra volta, e dopo la seconda volta, iniziano ad uscire molte acque da questa roccia. Quindi era quella giusta? Sì, però l'errore... Era quella giusta? Come? Era quella giusta o era diventata forza quella giusta? No, sembrerebbe che era quella giusta, però l'errore qui non era tanto in quale roccia fosse, l'errore era nella reazione di Mosè, che era una reazione data dall'istinto, dalla rabbia. Però era una reazione sbagliata, perché è uscita l'acqua. No. Cioè, se una cosa è sbagliata, allora non c'è una conseguenza positiva. Perché Hashem lo punisce? Perché non serve a lui. La conseguenza negativa non c'era, non era la mancanza di acqua. Il popolo aveva bisogno di acqua, no, comunque. No, io dico, se il comportamento è giudicato negativo, non sì. può esserci una conseguenza positiva, che è l'acqua. Allora, aspetta, Ruben. Sì, però se gli sono le direzioni è parla con la roccia, se poi comunque tu non ce parli, ma batte addosso la pietra. Allora, questo stesso può fungere da lezione per come funziona, per così dire, la causa e la conseguenza. La causa è un errore di Mosè, la conseguenza è una punizione per Mosè, non una punizione per il popolo. Però è un errore relativo alla fine. Oh, bravo, ok. Cioè non mi sembra una cosa no, più che non ti permette di entrare in crisi. No, questo... più che altro questa persona era disperata. Cioè, era torniamo al pretesto, torniamo al pretesto. Poi, certo. Vorrei citare buon'anima del nonno di Graziano che diceva che un no... cancella mille sì, così sembra che un no ha cancellato mille, cioè tutte le cose vero? Che ha fatto. Allora qui stiamo tornando al concetto del pretesto, che effettivamente non era questa la vera motivazione per la quale Mosè non entra in Eretz Israel, era già destinato da prima che Mosè non dovesse entrare in Eretz Israel. Quindi non è questo il punto è cosa possiamo capire noi da questa storia, cosa stanno cercando di dirci a noi con tutta questa descrizione, con tutta questa storia. Entriamo un pochino nella motivazione del peccato stesso, della proporzione, del rapporto tra la causa e la conseguenza in questo caso. Però, solo per concludere la descrizione della storia, la Torah appunto reagisce con questa, tra virgolette, conseguenza, punizione che sappiamo, di non entrare in Eretz Israel, e effettivamente... Aaron morirà anche lui qualche mese dopo questa storia. La data della morte di Aaron, anche la sappiamo, è il Rosh Chodesh del mese di Av, un mese prima Rosh Chodesh Elul, Rosh Chodesh Av, il mese di Tisha B'Av. E Mosè, circa 11 mesi dopo, al settimo giorno del mese di Adar, arriva ai suoi 120 anni e muore Mosè, a pochi chilometri dall'entrata in Eretz Israel. Ok? Solo una domanda, sì? Ma il fatto che Kadosh Baruch Hu dice a Mosè che non sarebbe entrato in terra di Israele, gli viene detto nel momento in cui compie l'errore o cioè in, sì, quando, sì, quando nel momento viene... in cui. Sì, sì, sì. Cioè in quel momento. Per questo tu non... Sì, sì, sì, assolutamente. Viene anche ricordato in un'altra parasha ancora. Ma la cosa molto strana, innanzitutto, è la sproporzione, chiaramente, come abbiamo tutti detto prima. Ma la cosa molto strana è che se tornassimo indietro 40 anni, 39 anni, ai primi momenti in cui gli ebrei sono entrati nel deserto, anche lì mancava l'acqua. E la Torah racconta, nella parasha di Shemot, non nella parasha di Shemot, nella parasha di Beshalach, che si lamentavano per l'acqua, eccetera, eccetera. Kadosh Baruch Hu ha detto a Mosè: prendi la staffa con la quale hai colpito il Nilo, che se vi ricordate era trasformato in sangue, e poi sono uscite le rane e tutte le piaghe. E dice testualmente: e colpisci la roccia. E l'acqua fuoriuscirà. Questo è un errore di impianto. Questo è un errore di impianto. E così fece Mosè. E uscì l'acqua. No, questa è una giustificazione ulteriore per quello che ha fatto Mosè dopo, perché magari istintivamente gli ha dato la botta perché. Esatto. E secondo me non è proprio così. Secondo me invece rimaniamo perplessi. È questione dei tempisti. Esatto. Rimaniamo confusi. Cioè, quello che tu hai fatto 39 anni fa per andava far bene. Accadere una cosa. Non sì. è detto che vada bene. Oh, anche 39 Graziano anni è dopo. Avanti. Graziano è avanti. Però allora io ti dico là tutte le misvot. Come? Là tutto il concetto di misvot. Cosa, che è fuori intendi? Il tempo. E lui dice, non è vero che una cosa che fai oggi va bene, cioè magari oggi fai questa cosa okay. e poi non va più bene. La Milà, vabbè, cioè, è una cosa le mitzvot sono fuori dal tempo, però va detto che ci sono 613 mitzvot, vero? Se tu vai a contare sulla Torah quante istruzioni che tu potresti chiamare mitzvot esistono sulla Torah, molto più di 613. Perché esistono mitzvot che sono per le generazioni, esistono istruzioni che sono per il momento. È chiaro che noi non abbiamo una mitzvah di colpire delle rocce o di parlare con le rocce, no? Quindi quella era un'istruzione del momento, non è paragonabile a una mitzvah eterna. questo è ancora più giustificabile. No, però secondo me... Sì, questo cosa... ci rimane, rimaniamo perplessi per no, questa... No, concesso che sia cioè, sono d'accordo con Graziano perché ha ragione, però è una giustificazione ulteriore a quello che ha fatto. No, ma anche quello che dice Ruben, se tu fai tutto quello che fai di Shabbat di mercoledì, non è mitzvah. Esatto, esatto. Se metti dei fillin di notte, non è mitzvah. Esattamente. Ogni mitzvah ha la sua definizione, ci sono categorie di mitzvot. Comunque, se guardiamo il Rambam... Vogliamo sentire cosa dice Rambam? Sì, no, faccio solo un cenno. No, Rambam parla di un'altra. Rambam dice che qual era il vero peccato di Mosè qui? Non era il colpire, il non colpire. L'essersi arrabbiato. L'essersi arrabbiato. Questo è lo, questa è l'opinione spiegata da Rambam. Il Ramban, Rabbi Mosè ben Nachman, Nachmanide, dice, ascoltate bene le parole di Mosè. Haminasela haze nozi lachem maim. Credete che da questa roccia riusciremo a far fuoriuscire per voi dell'acqua? Chi a questo riusciremo? Io ed Aaron, Mosè ed Aaron. Siete voi che fate uscire l'acqua? Siete voi che vi attribuite delle capacità che non sono vostre? Questo è il grande errore secondo Nachmanide, secondo Ramban. Altri commentatori dicono... A Barbanel, per esempio, Don Yitzhak a Barbanel, scrive che non era tanto il discorso qui del problema dell'acqua, era più il legame di Mosè con il discorso degli esploratori. Ecco il nesso con Eretz Israel. Gli esploratori. HaKadosh Baruch Hu ha chiesto a Mosè di mandare gli esploratori a vedere se la terra andava bene o non andava bene. No, gli ebrei l'hanno voluto, ma... l'hanno fatto con il benestare di Mosè ed era lui che poi ha scelto le persone ed era lui che poi li ha inviati. Allora se tu dimostri questo tipo di rapporto con Eretz Israel, forse non meriti di entrare in Eretz Israel. Secondo Abarbanel è più legato a questo e torniamo di nuovo al pretesto con l'acqua che è come l'ultima cosa che... si è preso meriti che avrebbero fuori. Questo ha detto Ramban, esatto. No? Però, noi ti faremo... Secondo me, al di là di tutto, anche queste altre motivazioni non giustificano la mancata entrata. Molto bene. Allora vorrei proporre altri due, brevemente altre due spiegazioni che sono in altri commentatori. Uno lo troviamo nel Midrash che si chiama Yalkut Shimoni e uno nel Ibn Ezra, un altro famoso commentatore della Gemara. La Gemara della Torah, scusate. La Gemara racconta nel trattato di Tanit una storia, un racconto. Cos'è il racconto? Uno dei più grandi maestri della Gemara, cioè dell'epoca del Talmud in Babilonia, veniva chiamato Rav per eccellenza, per quanto era importante e grande, considerato la fonte della rinascita della Torah in Babilonia. Il suo nome era Abba, Rabbi Abba, però veniva chiamato Rav per eccellenza. Allora si racconta che Rav arrivò un giorno in una città. In questa città c'era una carenza di pioggia per tanto tempo. Per vari mesi o per tanti mesi non si è vista pioggia e il pubblico era ormai arrivato ad un punto di disperazione. Hanno deciso di fissare un digiuno, un giorno di preghiera particolare, di fare una tefilà speciale e hanno mandato in tevà una determinata persona a guidare la tefilà. Allora Rav racconta, io ero lì, e quando c'è stata la ripetizione dell'Amidà, durante la ripetizione, l'Amidà, cosa diciamo? Quando è periodo invernale, Mashiva Ruach Umorida Geshem, che Kadosh Baruch Hu nella sua potenza fa soffiare il vento e fa scendere la pioggia, piovere la pioggia. Questo signore che era stato invitato a guidare la tefilà nella tevà, era stato invitato a fare lo Shaliach Tzibur, a rappresentare il pubblico nella tefilà, lui diceva le parole Mashiva Ruach e a un tratto si sentiva il vento che soffiava. Diceva la parola Morida Geshem e iniziò a piovere. Rav è rimasto a bocca aperta. Ha detto, ma chi è questo grandissimo tzaddik che come lui fa la tefilà, Kadosh Baruch Hu mette in atto quelle che sono le sue richieste. Neanche ha chiesto, ha solo menzionato la grandezza di Kadosh Baruch Hu. Immagina, tu dici, ma Shiva Ruach, sembra una formula magica. Poteva dire qualcos'altro. Vabbè. Allora Rav dice, mi sono interessato su questa, riguardo a questa persona, volevo capire chi fosse, cosa rappresentava, dove ha studiato, di chi erano i suoi meriti, che ne so, ti interessi della persona? Che merito particolare potrebbe avere? Gli hanno detto no, è un semplice insegnante di bambini. Ok, vorrei parlarci. Gli ha detto, sì, ovviamente non è niente, però non era conosciuto come un grande conoscitore, un grande chacham, un grande... Era umile. Era molto umile, evidentemente. Ma lui, Rav, gli pose la domanda e gli disse, secondo te, per quale motivo hai avuto questo grande merito? Perché il merito, effettivamente, l'hanno visto tutti. Allora, per quale motivo, cos'è che hai fatto di particolare, secondo te, per poter aver meritato questo? Lui disse, forse due cose. La prima cosa è che io insegno i figli dei ricchi e i figli dei poveri nella stessa maniera. Anche se c'è un figlio di poveri che non hanno la possibilità di pagare la retta dell'insegnamento che faccio, li prendo uguale. La seconda cosa, il metodo che utilizzo per insegnare. Qual è il metodo? Dice, nel cortile della casa o dell'edificio in cui studiamo, cui studio con i bambini, insegno ai bambini, c'è una vasca, un tipo di piccola piscina, e in questa fontana o quello che è, ci sono dei pesci che si trovano lì. Io cosa faccio? Quando ci sono dei bambini che non vogliono studiare, gli do shohad, gli do la mazzetta, qual è la mazzetta? Gli dico, guarda, studia questo e questo, e poi ti faccio giocare con i pesci. Ma è vero. Sembra semplice, no? Però, con le buone, riesce a farli entrare nello studio, a studiare, ad apprendere. E dice, Rav ha detto, sicuramente erano queste due cose che hanno fatto sì che questa persona abbia questo grande merito, che con le sue richieste automaticamente venivano esaudite in alto da Kadosh Baruch Hu. Questa storia che la Gemara racconta, che Rav raccontava ed è registrata nella Gemara, ci insegna che a volte quello che noi consideriamo educazione spesso è una cosa forzata. Cosa significa forzata? Controvoglia. Quando tu educhi, tra virgolette, un bambino piccolo, spesso, forse senza neanche accorgersene, lo stai forzando, lo stai costringendo a comportarsi in una determinata maniera. È difficile avere un bambino che, vero, che apprende. Vero, e proprio a questo arriverò. Un bambino piccolo ha bisogno di sapere cosa è lecito e cosa non è lecito. Cosa sentiamo sempre per strada? I genitori sgridano i bambini. Questo non si fa. Così si fa invece. Ma non c'è la spiegazione. Cioè questo no e questo sì. Questo sì e questo no. Questo è il modo. Spiegazioni domani. Quando sarai più grande capirai. In Yiddish c'è un detto, se capisci tutto diventerai anziano presto. Però è un modo di dire. Qui la Gemara ci sta insegnando che non è necessariamente sempre così. In generale noi cerchiamo di far abituare coloro che stiamo cercando di educare, i nostri figli o i nostri, quelli che se siamo educatori, ad abituarsi a comportarsi in una determinata maniera. Cioè molto di quello che noi siamo si attribuisce alle nostre abitudini. E le nostre abitudini sono acquisite, non è che si nasce con l'abitudine. Quindi se qualcuno ci ha fatto abituare a comportarci in una determinata maniera, diventa quasi come una nostra, non è proprio natura, ma diventa quasi come natura. Diventa quello che alla fine noi siamo, come ci poniamo, come ci comportiamo, soprattutto nei confronti di altre persone, nei confronti della società, ma anche nei confronti di noi stessi. Quindi l'abitudine è una cosa acquisita, ma inizialmente potrebbe essere acquisita in maniera forzata, fatta acquisire in maniera quasi forzata, tra virgolette, ovviamente non dico forzata con la frusta, però alla fine anche se non è 100% contro voglia, ma non è naturale che venga così. Non è spontanea, grazie. Sei bravo con il linguaggio stasera, grazie. No, ma suggeritemi le parole. È oratore. Allora, la Gemara ci sta insegnando tutto questo, è molto bello e a volte è necessario, ma questa non è vera educazione. Questo non è vero chinuch. Vera educazione significa ora mi darai te la parola? Alberto. Quasi come per arruolare, quando tu devi arruolare qualcuno in un ruolo, lo devi convincere. Lui deve essere convinto, non deve essere forzato, perché se no ti lascia un giorno dopo. Allora, se tu convinci il bambino, se tu lo alzi, lo dai, gli dai motivazione e fai sì che poi c'è qualcosa che lui o lei apprezza di questo comportamento, di questo insegnamento che sia, allora diventa un suo modo di vedere le cose. E non è più qualche cosa che è imposta. E quindi, in parole povere, bisogna inserire nella disciplina della motivazione e delle motivazioni e dei ragionamenti, ok? Ovviamente anche rapportati all'età e al livello della persona, è chiaro, ok? Non puoi dare le stesse motivazioni a uno di 26 e a uno di 6, però puoi dare qualche tipo di motivazione, puoi dare qualche tipo di mazzetta, tra virgolette, quando serve per il bambino piccolo, che lo invoglia a lui e non che deve andare appunto contro voglia e deve lottare con se stesso e poi dire ok, ora sono libero. No, diventa una parte di lui. Allora nel Midrash al Kucimoni, che dicevo prima, fa un paragone molto molto interessante, una metafora. La roccia, che alludevi tu prima, la roccia all'inizio dei 40 anni e la roccia alla fine dei 40 anni, all'inizio andava colpita e alla fine ci si doveva parlare. La roccia è rappresentativa di Am Israel stesso, del popolo ebraico. È un vero e proprio percorso. Questo è un percorso. Qui eravamo bambini e qui avremmo dovuto già essere adulti. Però che colpa ne ha Musa? Che lui ha trattato come bambini e verso adulti. Beh, mica tanto, dopo quello che hanno fatto. Allora, aspetta, voglio riformulare una cosa. Ho detto prima, non stiamo parlando qui della colpa di Mosè, stiamo parlando di qual è la lezione che noi possiamo trarre dal fatto che la Torah racconta questa storia. La colpa di Mosè, lasciamola per i commentatori, uno dice la rabbia, uno dice gli esploratori e altre. Ci sono 13 o 14 spiegazioni diverse nelle spiegazioni nei commenti dei commentatori classici della Torah. Però non è questo il punto qui. Il punto è, la Torah ci sta raccontando qualche cosa. Quella roccia all'inizio siamo noi. E all'inizio dovevamo essere colpiti. Cioè, come un bambino piccolo al quale bisogna dire, è così. Questo è il modo in cui bisogna comportare. Vuoi fare questo? Non si può fare. Perché? Ok, adesso continua nel percorso, piano piano cresci un po' e capirai anche tu perché. Arrivati a quel punto nel percorso in cui, dopo appunto tutte quelle rivelazioni che abbiamo vissuto, dopo appunto tutto quello studio che abbiamo fatto e dopo tutto quel percorso che abbiamo fatto nel corso dei 40 anni di crescita, di approfondimento e di studio appunto, allora siamo arrivati ad un momento in cui avremmo dovuto apprezzare certe cose, certe realtà, con la nostra mente, non perché sono state imposte o c'è stata una rivelazione che ci ha travolto e noi siamo rimasti a bocca aperta e non avevamo scelta. No, qualcosa che viene dall'interno di noi, motivata, approfondita, motivata. E quindi la storia della mancanza del cogliere quel momento è anche una storia legata comunque alla leadership, al come la guida della situazione, in quel caso di Mosè, si rapporta a questo percorso. E qui arrivo a quello che commentava il Rabbi Avram Ibn Ezra che dicevo prima. Lui dice, e cito prima due righe di un Midrash. Il Midrash dice così. Moshe Rabbeinu, a Moshe Rabbeinu viene detto: non chiamare ai miei figli, cioè a Israele, non dare loro un nome dispregiativo, che è quello che lui ha usato in questa parasha, Hamorim, ribelli. Non chiamarli ribelli, forse devono imparare, forse devono crescere, ma non chiamarli ribelli. Tu non hai il diritto di parlare male di Bnei Israele. Cosa dice Mosè in questa parasha? Shimun Hamorim, li chiama proprio con questo termine qua. Allora il Midrash dice... Però c'ha ragione, scusami, c'ha ragione, cioè è liberatorio, nel senso, non è la prima volta che... Approfondiamo un attimino. Così, no, ragione, ma più che altro era anche messo in discussione. Ignoranti, forse, come qualsiasi altra persona che accettava, però Mosè era... Cioè, a volte, noi, rispondendo a Ruben, dici ha ragione. È vero che ha ragione, certo che ha ragione. Una, due, tre volte, ma avete levato la vita. Allora, voi siete giovani. Però io ho da fare anche con molti genitori, a parte che sono genitore, però con molti genitori. I genitori per natura possono dire tutto dei loro figli, ma se qualcun altro che lo dice, allora è tutta un'altra storia. Ci scusa, ma è vero? Certo che è vero, ma non c'entra niente la realtà qui. Come ti permetti di parlare, di dire una cosa del genere di mio figlio, di mia figlia? È un'altra storia. E forse lo sapete anche dai vostri genitori. Però, spero che lo saprete presto dai vostri figli, se Dio vuole. Quello che sta dicendo è, non chiamarli ribelli è molto più profondo del semplice, come un genitore materiale che dice non sparlare di mio figlio. Non chiamarli ribelli significa, invece di sgridarli, educali. Invece di dire, ah, come vi permettete? Guardate che state sbagliando, perché così e così e così. Vedete la cosa in un'altra prospettiva. Cioè, come non uccidere è sbagliato, però arriva un momento in cui bisogna uccidere. Cioè tipo Pinchas, se lui fosse andato lì con l'educazione, ragazzi scusate, non potete prendervi le muove, cioè non sarebbe stata cosa. No, quello ha deciso, no, quello c'è. Com'era la massa? Lì Pinchas ha avuto l'idea giusta. Scusate. Vero, cioè, però emette Shalom, c'è un momento per la pace, c'è un momento per la verità, bisogna dire la pace. Evidentemente quello non era il momento. E allora noi dobbiamo cercare di capire perché non era il momento. Quindi la Torah, e questo Midrash in particolare, ci sta insegnando che in quella situazione sarebbe stato meglio elevare loro che invece il contrario sgridandoli. Quando tu ti trovi davanti ad un bambino che fa un errore, e tu lo sminuisci, lo umili. Che risultato ottieni? Nessuno. Non solo nessuno. Magari nessuno. La prossima volta ottieni un risultato negativo. Ma davanti a un bambino che fa un errore, e tu lo aiuti a capire l'errore che ha fatto, a capire perché è male per lui e come può migliorare, allora hai cambiato la situazione. Hai elevato la persona invece di abbassarla, di schiacciarla. Dimmi. No, che stavo pensando che sì, tutte le storie che noi abbiamo studiato nel corso sì dell'anno, c'è sempre stata la situazione in cui Mosè era il primo che spesso e volentieri discuteva pure con Dio su dei modi con cui comportarsi con il popolo. Nel senso mm-hmm che lui era il primo che si metteva davanti per esatto cercare di educare il popolo. Sì, sì, sì, sì. E quindi in questa, cioè, non poteva essere che in quella situazione lui aveva ritenuto di comportarsi in quel modo perché quello secondo lui era il modo in cui poteva educarli, nel senso che lui ha dimostrato nel corso di tutto il suo percorso di essere un leader e di saper sì, comportarsi sì, con sì, il sì, popolo. Sì, sì. Quindi perché proprio in quel momento quello doveva essere sbagliato invece... Allora, questo è un punto molto importante e molto interessante. Perché è vero, normalmente Mosè è l'esempio della guida che si mette in prima linea per mettere il proprio io da parte, per mantenere invece sana la situazione del popolo, il rapporto del popolo con HaKadosh Baruch Hu, giusto? Cioè è pronto a sacrificarsi. Qui c'è qualcosa che invece è un'eccezione, effettivamente. ok? E quindi ci sono alcuni punti qui. Un punto è, questo è un modo per la Torah, per trasmettere a noi l'idea che ogni essere umano può sbagliare. Per quale motivo, per esempio, c'è scritto che non si conosce il luogo della sepoltura di Mosè? La Torah lo dice, che Mosè è stato sepolto in un determinato monte, ma non si sa esattamente il punto della sua sepoltura. E non è, è stato voluto da Kadosh Baruch Hu che non lo si sapesse. Una cosa che è scritta è questa, ma la cosa che è più prevalente come spiegazione dei Chachamim è che sarebbe diventato un luogo di culto idolatro. Beh, che un po' in realtà è una cosa che esiste, cioè lo stesso muro del pianto. Ok, io farei una distinzione, però voglio prima concludere questa idea qui. Si voleva evitare che una persona che è più grande della vita, che è riuscito ad ottenere dei livelli, ad accedere a dei livelli che nessuno è mai acceduto, forse avrebbe assunto agli occhi delle persone un qualcosa che non era, cioè che era comunque un essere umano. Il fatto che viene dimostrato il suo errore potrebbe forse anche essere legato a questo. E quindi, che giustamente, come dici tu, Ariel, c'è tutta una scia, tutto un modo di fare di Mosè che è esemplare in questo senso, e qui c'è esattamente l'opposto in un caso specifico. E proprio questo viene portato come esempio, per indicare, come appunto dicevo, che tutti possono fare un errore, ma di nuovo, tornando a quello che volevo dire prima, ad una lezione per noi, che in alcune situazioni uno potrebbe perdere le staffe, e Ruben dice, ci aveva pure ragione a farlo, ma è proprio lì che veniamo messi alla prova. La situazione in cui veniamo messi alla prova è proprio quella in cui perdi le staffe, perché nelle altre situazioni non sei messo fino a così tanto alla prova. La prova è proprio lì. Dimmi, dimmi. Inizialmente facciamo lezione con quel rab, che era spagnolo se non sbaglio, che lui ci disse che lui di carattere era uno iracondo. Ah, sì, sì, sì, me l'avevi detto, sì. Secondo lui uno dei spot più importanti fosse stata quella di domare la propria ira e la... Che da ragazzo era una persona totalmente irascibile. Sì, sì, sì. Passare il tempo si è calmato e secondo lui questa è la mezza più importante. No, secondo me il punto è un altro rispetto alla storia di Mosè. Sì. Che lui è automaticamente un educatore per il popolo e viene anche a sua volta educato. Però nel momento in cui dice una frase del genere, lui non è solamente un educatore, è molto più, cioè si paragona a Dio. No, si paragona a Dio perché dice io posso sgridarvi, sono nella sua stessa posizione. Sì, è simile a quello che diceva il Ramban, noi vi faremo dell'acqua, noi vi porteremo l'acqua. Vero? Si mette su un piano che non è il suo. Però per concludere con un esempio della storia più recente. No, ancora più recente. Voi tutti sapete che c'è quello che è stato fino a poco fa il capo rabbino della Gran Bretagna, Rav Jonathan Sacks. E che è molto famoso, è un grande oratore, ha scritto molte opere molto importanti e seguito da molti, anche in Italia, e giustamente. Il suo percorso, non so se sapete la sua storia, il suo percorso non inizia come un percorso di formazione rabbinica. Lui era uno studente di filosofia alla Università di Cambridge. Veniva da una famiglia osservante, diciamo, però questo era il suo percorso e entrando in quel mondo filosofico gli ha dato tanti dubbi a livello di fede, a livello di ebraismo, di visione filosofica dell'ebraismo, eccetera. E arrivato a un certo punto abbastanza inoltrato in questo suo percorso di studi, ha deciso di fare un viaggio negli Stati Uniti per parlare con grandi figure di Torah sui suoi dubbi, sulle sue domande che si poneva, eccetera, per cercare di vedere meglio il proprio futuro. Facendola breve, tra queste grandi figure, lui chiaramente andò anche a trovare il Rebbe di Lubavitch. E lui racconta, e potete anche trovare su YouTube vari punti in cui lo racconta di prima persona, che lui venne dal Rebbe per porre i suoi quesiti, le sue domande, i suoi dubbi. Ma poi dice, e fece le sue domande, ebbe delle risposte, poi dice a un certo punto, il Rebbe capovolse le carte, diciamo, la frittata, girò la frittata, e iniziò lui ad intervistare Jonathan Sachs. E iniziò a porgli le domande. Quanti studenti ebrei ci sono a Cambridge? Ah, credo così così. Che attività ebraiche ci sono per loro? Che possibilità di socializzazione tra ebrei c'è per loro? Cosa farai tu quando tornerai a Cambridge per migliorare questa situazione? Lui rimase un attimo. Non è lei che deve fare le domande, sono io, no? E uscendo da lì, ha detto, è cambiata tutta la mia prospettiva. In qualsiasi situazione, e lui disse una frase molto interessante, che lui cercò di dare una scusa e ha iniziato a dire una frase molto inglese ma anche italiana, no? Quando si usano molte parole per dire, guardi Rebbe, nella situazione nella quale mi trovo ora, il Rebbe lo interrompe e gli dice, nessuno si trova in una situazione, ci si mette in una situazione. Che puoi dire? Ha fermato lì. Ha detto, e Rebbe ha iniziato a mandargli delle lettere, delle istruzioni, e lui ha deciso di entrare più nel mondo della Torah. È andato a studiare un po' in Yeshiva, ha studiato, c'è un villaggio che si chiama Kfar Chabad, vicino Tel Aviv, vicino all'aeroporto, villaggio Chabad, è entrato lì nella Yeshiva per un periodo, ha approfondito molto, è entrato in altri Yeshivot, e ha deciso di diventare un Rav. Il Rebbe l'ha spinto molto in questa direzione. E poi sapete la storia, è diventato Rav di un Beta Knesset, e poi della città, e poi di tutta la Gran Bretagna, eccetera, eccetera. E oggi una figura molto famosa, politico. Sempre molto politico. Stare nella Camera dei Comuni. No, ma non è a livello politico, credo. È più una posizione onorevole. Ah, sì? Sì, credo di sì. House of Lords. Non credo che è legato a un partito specifico, se non sbaglio. Credo che sia più una cosa onorevole. Poi puoi guardare su Wikipedia, lo puoi vedere subito. Comunque, il punto è, quando tu educhi una persona e quando cerchi di educare te stesso, quello che devi cercare di fare è di spronare e usufruire del potenziale che c'è dentro per elevare. Non mai per schiacciare, ma per elevare. Non per sgridare, ma per ragionare, per motivare. Questo è davvero uno dei messaggi che forse c'è nella storia del colpire la roccia e la relativa conseguenza, eccetera, eccetera. Il nostro modo di vedere le rocce, cioè le difficoltà che ci vengono incontro, può essere visto da una prospettiva, e cioè... c'è una roccia, la dobbiamo colpire, la dobbiamo rompere, dobbiamo cercare di distruggerla per poter passare. E l'altra prospettiva sarebbe, c'è una roccia, posso salire sopra e diventare molto più elevato. E questo è davvero quello che dovremmo fare con noi stessi, con chi si trova intorno a noi. Sempre cercare di elevare o noi stessi o la situazione e non di schiacciare o di distruggere. Mai sia. Allora, l'chaim, che potessimo entrare più in questa ottica. Amen ve amen.